Allora, per la precisione non sono a Trieste, ma mi trovo in questo momento a Cormont, che è in provincia di Gorizia. Qui a Cormont da pochi minuti una trentina di persone sta occupando gli uffici della Misericordia, questa associazione legata alla Caritas che da oggi, ma anche da prima, gestisce le strutture detentive, i CPT in molte parti d'Italia. Oggi ecco, ci sono una trentina di persone che qui davanti sono entrate negli uffici, hanno occupato gli uffici di questa Misericordia, ecco, di questa sezione territoriale della Misericordia, esponendo degli striscioni dalle finestre, bloccando l'accesso anche alla struttura con un altro striscione che è lo Cisterno Lager sulle nostre terre. Alcuni manifestanti sono alle finestre di questo edificio, stanno megafonando, come potete sentire, altri invece stanno appunto accendendo dei fumogeni e quindi colorando un po' tutto l'ambiente circostante. Ecco, leggo da un volantino che appunto si sta distribuendo qui anche i motivi, diciamo, di questa iniziativa oggi qui a Cormont. Diciamo che ecco, al di là ovviamente ecco, un messaggio chiaro a tutte le altre misericordie, diciamo, che in giro per l'Italia gestiscono i CPT, come appunto sta succedendo a Mona, anche a Bologna e anche da altre parti, diciamo, la Misericordia, ricordiamo appunto, è una struttura che già nel 2003-2004 ha percepito circa 7 milioni di euro per la gestione dei vari CPT, per esempio di Agrigento, Lampedusa e Modena, tra l'altro quello di Modena diretto anche direttamente dal fratello del ministro Giovanardi. Quindi è, diciamo, un'associazione che al di là degli scopi volontaristici che appunto propone di facciata, nasconde in realtà tutto un interesse affarista sulla gestione dell'immigrazione e dei CPT. Ecco, quindi vedo che allora è un'iniziativa appunto che penso a questo punto si inserisca all'interno di quella che è la giornata europea del 2 aprile di azione contro i CPT e contro appunto i lager in giro per l'Europa, quindi evidentemente anche da altre parti, diciamo, in Italia si è individuato come obiettivo, diciamo, anche di protesta, si è scoperta finalmente nelle proteste quelle che i reali interessi di questa associazione, di questa appunto Misericordia. In particolare, diciamo, l'azione di oggi anche qui in questi territori lancia, penso, un messaggio molto chiaro non solo appunto alla Misericordia, ma a tutte anche le altre realtà locali e qui appunto della regione, del cosiddetto terzo settore che sono in qualche modo interessate e vorrebbero entrare a far parte del grande affare del CPT di Gradisca, di Sonzo. Voci ancora non del tutto smentite dei giorni scorsi, delle settimane precedenti, appunto indicavano anche la Misericordia appunto come una delle principali associazioni interessate per la gestione di questo CPT. Esatto, infatti si troviamo in realtà proprio anche a pochi chilometri di distanza da Gradisca, dove appunto sorge questa mostruosa costruzione che abbiamo potuto vedere anche nelle manifestazioni per esempio del 26 febbraio scorso. E quindi ecco, come dicevi tu, ricordavi uno dei centri, uno dei CPT più grandi d'Italia. Sarebbe un bel bocconcino per la Misericordia il CPT di Gradisca. Non solo ovviamente per la Misericordia, ma anche per tante altre, poi immagino, realtà che su questo appunto CPT vorrebbero fare affari, vorrebbero appunto creare un giro economico sulla pelle poi delle persone che verrebbero rinchiuse all'interno di quel lager. Ecco, quindi diciamo un chiaro messaggio non solo alla Misericordia, di cui oggi appunto viene colpito il simbolo che rappresenta nei confronti appunto della gestione degli altri CPT, ma un messaggio chiaro penso anche a tutti coloro che in un qualche modo dalla gestione anche delle strutture interne, ma anche appunto della gestione anche dello stesso altro paventato centro di identificazione che vorrebbero costruire all'interno stesso del CPT di Gradisca. Ecco, quindi è un chiaro messaggio verso tutti coloro che intendono in qualche modo entrare dentro questo affare.